Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera andremo nelle Marche per raccontare una storia che al momento definirei unica in Italia, che ha al centro il gruppo Loccioni. In quanto realtà industriale, le aziende di questo gruppo producono sistemi di misura e controllo automatici per i più svariati comparti: l'industria manifatturiera, la sanità, la mobilità, l'ambiente e l'energia. Ma di fatto loro sono degli integratori di idee e ormai da molti anni, in modo molto concreto, sono portatori di una precisa visione di sviluppo molto attenta alle persone e all'ambiente. Dico in modo molto concreto perché il gruppo Loccioni ha impegnato risorse rilevanti ben oltre, direi, i confini della cosiddetta responsabilità sociale d'impresa per dare vita appunto a questa visione sul territorio che ne ospita gli stabilimenti ad Angeli di Rosora in provincia di Ancona. Ma diamo benvenuto al nostro ospite. Buonasera Enrico Loccioni. Buonasera a voi. Allora, lei è il fondatore del gruppo Loccioni. Le chiedo intanto di darci in 30 secondi una fotografia del gruppo oggi. Da 45 anni facciamo impresa partendo da zero in questo territorio, siamo rimasti in questo territorio, proponiamo e abbiamo rapporti con clienti in tutto il mondo attraverso tre sedi che abbiamo a Shanghai, in Germania e a Washington. Siamo vicini ai nostri clienti, grandi gruppi a cui offriamo soluzioni per il controllo e il monitoraggio della qualità, impiegando dall'altra parte circa 400 persone, 32 anni di età media, metà laureati, perciò molta produttività intellettuale, un'impresa della conoscenza che mette insieme appunto tecnologie per risolvere problemi. Che cos'è 2 chilometri di futuro, che è il tema di cui vogliamo parlare oggi? È il titolo che abbiamo dato a un investimento che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni di adottare e avere in concessione 2 chilometri di un corso che è uno dei principali fiumi Sino, dove noi abbiamo le nostre attività. Era un'area sondabile, abbiamo provveduto a sistemarla investendoci di nostro in un'area pubblica. Questo ci ha permesso di poter realizzare un altro laboratorio di 6.500 metri quadri, offrire del lavoro a 100 persone, perché noi abbiamo la possibilità di veramente occupare nuove risorse, e questo intervento ci ha permesso di trasformare una minaccia in opportunità e realizzare anche un laboratorio aperto dove diventa un percorso didattico. Abbiamo strumentazione di misura per vedere come si possono prevenire infortuni tipo pile dei ponti che cadono piuttosto che frane che arrivano, oppure misurare e prevenire il livello dell'acqua che si alza. Quindi avete fatto un lavoro, diciamo, di ricostruzione, di riqualificazione ambientale di questo tratto di fiume, in realtà anche di tutta l'area intorno, e avete dotato di infrastrutture tecnologiche il fiume affinché possiate poi appunto monitorarlo dal punto di vista ambientale e fare prevenzione. Ecco, tra l'altro questo progetto molto calato sul territorio ne ha alle spalle un altro che forse è un po' il suo precursore, che si chiama Leaf Community. Se brevemente ci spiega anche questo. Esattamente, anche questo è un lavoro che almeno 15 anni fa abbiamo iniziato mettendo insieme tecnologie per l'utilizzo dei beni comuni, quali appunto l'aria, l'acqua, non i beni del comune, ma i beni quelli che tutti utilizziamo e che ancora non sono tassati, come l'aria, l'acqua, il suolo, il sole e così via, e attraverso la tecnologia estrarre valore da questi sistemi proprio per realizzare degli episodi che sono funzionali al nostro lavoro, ma che in qualche modo diventano testimonianza che si può fare. Ecco, e questa Leaf Community alla fine è un prototipo della cosiddetta smart grid, sbaglio a dirlo, cioè voi avete collegato le vostre imprese con le case di quelli che abitano lì di fianco e gestite l'energia. Esatto, dentro questa community appunto ci sono tutte queste pratiche dove noi lavoriamo, ci muoviamo, abitiamo e facciamo in modo che gli edifici costino un po' di più all'inizio perché siano progettati in maniera meno energivora, che nel tempo inquinino molto meno, ma che soprattutto durante la vita dell'edificio si spenda molto meno per l'esercizio e per la manutenzione. Le avranno già fatto 5.000 volte questa domanda, ma chi ve lo fa fare? Perché se non si capisce se è un modo di investire o se è un modo di restituire in un, come dire, slancio di generosità alla società quello che l'impresa ha prodotto come ricchezza. Allora, per quanto riguarda la mia attività di imprenditore, chiaramente vedere qualcosa che cresce è uno dei primi obiettivi, è un primo divertimento. Tutto quello che è legato a questo territorio... No, perché mi scusi, avete investito, credo, 15 milioni complessivamente in questi progetti sociali, diciamo, no? Abbiamo investito 15 milioni o perlomeno l'intervento sul fiume, che è costato la manutenzione, che non veniva fatta da tanti anni, abbiamo investito 2 milioni e mezzo sul fiume e abbiamo potuto realizzare appunto gli edifici che hanno l'occupazione a 300 persone. Investendo la fiscalità dell'impresa in questo caso, ma dal fiume, prelevando tutto quello che si prelevava nei tempi dove i contadini avevano necessità appunto di sopravvivere, dove l'acqua diventa una risorsa perché portiamo dentro l'energia elettrica, la ghiaia, la legna per bruciarla per scaldare l'acqua, c'è una serie di soluzioni che permette di avere comunque il ritorno di un investimento in 7-8 anni. Grazie Enrico Loccioni. Grazie a voi. Bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani.